Friuli nel mondo, 141esima trasmissione dedicata agli emigrati, Rapsodia di Villotte. Siamo certi che i vecchi e melodiosi motivi popolari friulani, che ascolterete dal coro di Villa Vicentina, diretto dal maestro Secondo Del Bianco, motivi tramandatisi da padre in figlio, attraverso una lunga teoria di generazioni, e che esprimono lo spirito della nostra terra con le sue tradizioni e con il ricordo delle sue vicende e delle antiche costumanze, riporteranno il vostro pensiero al patriarcale Friuli di un tempo. Ascoltate pertanto C'è biele lune di Tita Marzuttini, L'Ave Marie di Escher, motivi popolari nella trascrizione di Secondo Del Bianco. Yeah. Quo Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.